in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali. Oggi come ieri, e a differenza invece di lunedì, ci sono titoli un po' diversi a seconda del quotidiano. Il Sole 24 Ore sceglie gli aggiornamenti che sono arrivati ieri dai mercati finanziari, quindi sia l'andamento delle borse, sia l'asta dei BTP, sia in generale la questione delle banche. E quindi appunto il titolo principale: tassi ai minimi in Europa e il BTP scende a quota 1,12. Questa quota 1,12 sono naturalmente gli interessi, che sono molto bassi. Ricordiamo, abbiamo sentito parlare di quando i buoni del tesoro avevano rendimenti ben diversi, ma adesso tra l'altro è tantissimi anni, e non solo in Italia, che questi rendimenti sono scesi. Per quanto riguarda il tema delle sofferenze, di cui sicuramente avete sentito parlare anche ieri, perché c'è stato quest'ultimo aggiornamento sul valore di queste sofferenze nei vari bilanci delle banche, le sofferenze, cioè gli NPL, cioè i crediti non esigibili o difficilmente esigibili, e che quindi sì, sono lì nel bilancio, come dire, questi signori mi devono dei soldi, ma con il sottotesto che questo debito non verrà onorato, e quindi vanno di fatto cancellati. Queste sofferenze però, anche nominali, sono scese a giugno, e quindi insomma è comunque una buona notizia. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi ricordo il focus dell'estate, ormai siamo all'ottavo giorno, questa guida con tutte le novità per i professionisti questa settimana, e trovate tutto a pagina 28 e 29, si parla dei distacchi all'estero, cioè tutte le regole che valgono per quei lavoratori di imprese italiane che vengono mandati a lavorare in una filiale estera. Dal Corriere della Sera invece il titolo è diverso, perché il Corriere della Sera ha un'intervista fatta da Lorenzo Cremonesi, che in Libia è inviato, al primo ministro libico Serraj, e quindi il titolo dell'intervista: l'ISIS è un pericolo anche per voi, aiutateci adesso. Questa naturalmente è una tesi non nuova, anzi una delle ragioni principali per le quali si cerca l'alleanza con la Libia, e anche probabilmente una delle ragioni per le quali gli Stati Uniti hanno accolto l'appello di aiutare la Libia nel contrastare l'ISIS, è proprio che dalla Libia partono molti migranti, molti trafficanti di uomini sono basati in Libia, quindi e sono legati all'ISIS, e quindi da qui questa idea di cercare di unire le forze. La fotonotizia però è una foto scattata ieri a San Pietroburgo, dove, sapete, c'è stato questo vertice definito storico tra il presidente della Turchia Erdogan e il presidente della Russia Putin. L'analisi di Franco Venturini è: messaggio chiaro all'Occidente. In molti hanno cominciato a commentare questo ravvicinamento, in molti hanno anche, forse un po' semplificando, però c'è del vero in questo, spiegato che la prima visita e il primo viaggio all'estero di Erdogan dopo il fallito golpe del 15 luglio è stato in Russia, perché Putin è stato il primo tra tutti i leader mondiali a telefonare a Erdogan per complimentarsi del fatto che il golpe fosse fallito, per felicitarsi più che complimentarsi del fatto che il golpe fosse fallito, e per assicurare il sostegno della Russia. Tutti noi europei e gli americani abbiamo esitato, come se, fanno capire alcuni commenti, ci fosse chi sperava che il golpe invece magari non fallisse. Putin probabilmente aveva capito che era un golpe vero, presunto, inscenato, non inscenato, e con che grado non lo sappiamo, però che sarebbe fallito, e che quindi conveniva appunto felicitarsi al più presto con Erdogan. Lui l'ha fatto, e adesso, a distanza di meno di qualcosa più di 15 giorni, ha già incassato questa visita storica a San Pietroburgo. La Repubblica in questo caso anche titola sulla Libia, ma con un angolo diverso. Parla di Sirte, dove ci sono anche ancora dei soldati italiani in missione, e i comandanti libici dicono: queste forze speciali italiane ci stanno aiutando soprattutto nello sminamento. Bellissima la fotonotizia scelta, che è la foto di Teresa Almeida, di cui abbiamo parlato forse anche ieri, che è il portiere della squadra femminile di pallamano dell'Angola, che sta competendo alle Olimpiadi, pesa quasi 100 kg, e questo naturalmente si lega a quella quella vicenda che abbiamo ricordato ieri, di cui si è poi parlato anche, ma che estate è, e di cui parleremo ancora perché sono tantissimi i commenti, delle tre arciere che hanno vinto l'argento 4 giorni fa e che 3 giorni fa, e che sul quotidiano sportivo sono state, questa vittoria è stata celebrata con un titolo che le definiva cicciottelle. E ci fermiamo però un attimo per le informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, comincia ad arrivare qualche messaggio, vi ricordo il numero degli sms che è 349-238-6666. All'ascoltatore che non capisce perché ho detto che i titoli sono diversi a differenza di lunedì, è chiaro che non sono gli stessi titoli di lunedì, quello che succedeva lunedì era che tutti i giornali avevano lo stesso titolo, oggi invece ogni giornale sceglie di dare la maggiore enfasi a una notizia diversa, questo intendevo. La Repubblica, appunto dicevo, parla di Libia e poi mette questa fotonotizia di Teresa Almeida e adesso magari ho visto tra l'altro che ieri proprio su questo titolo delle cicciottelle, delle arciere cicciottelle, sono arrivati tantissimi messaggi. In minoranza erano quelli che dicevano è una questione di cui non ci si dovrebbe occupare, invece questo ha scatenato molto dibattito, anche perché il responsabile delle pagine sportive del quotidiano nazionale, cioè QS, è stato rimosso. Poi anche lì bisognerebbe entrare nel dettaglio, è un giornalista che ha 59 anni, non è proprio un licenziamento come titolano alcuni giornali, ma in realtà il sollevamento dall'incarico e probabilmente un accompagnamento verso la pensione un pochino più veloce. In ogni caso anche questo non è forse, questo è un po' spaccare il cappello in quattro. Vi suggerisco invece alcuni commenti, uno per esempio che inizia in prima pagina di Emanuela Audisio, che è secondo me una delle giornaliste che segue lo sport, lo fa per Repubblica da tantissimi anni, ma è una delle più brave in assoluto, così come lo è Gaia Piccardi sul Corriere della Sera. Vi cito giornaliste donne perché per quanto si siano affidati commenti anche a tanti uomini, forse visto che appunto questo aggettivo cicciottelle è stato usato per delle donne, forse sono le donne le più adatte a commentare. In ogni caso Emanuela Audisio sulla Repubblica scrive, e poi il pezzo continua a pagina 42, non sei mai sbagliata per lo sport, né troppo alta né troppo larga, puoi essere elefante, formica, libellula, balena, lo sport non ti mette mai in panchina né ti dice brutto mostro, è il suo bello. Trovare un posto in squadra a tutti, a chi è cresciuto poco, tanto, bene, male, dritto, storto. Un incipit completamente diverso da quello invece di Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, che si intitola invece Le cicciottelle, le nostre parole. Vi leggo le prime righe, poi lo trovate a pagina 27, ma sono proprio, appunto dicevo, uno l'ha scritto una donna, uno l'ha scritto un uomo, sono proprio, anche dagli incipit capite quanto sono diversi. Scrive Beppe Severgnini, quel titolo era sbagliato, peggio, era brutto. Ma se licenziassero tutti i giornalisti che hanno fatto un brutto titolo, le redazioni sarebbero deserte. Dunque l'autore non merita il linciaggio virtuale, ma ne vedremo anche altri, insomma, di commenti. Sul quotidiano nazionale la vicenda non trova alcun posto, alcuna riga. In prima pagina c'è, come dicevo, un titolo diverso che è quello sui profughi, ne abbiamo parlato anche ieri, queste emergenze che ci sono in particolare sulla frontiera con la Francia a Ventimiglia e su quella con la Svizzera a Como, ma anche a Milano, perché chi viene respinto rispettivamente dalla Francia ma soprattutto dalla Svizzera poi viene a Milano e quindi si sta creando una vera e propria emergenza. La fotonotizia è dedicata alla ministra Boschi, perché ieri lei ha detto questa frase, poi ha cercato di correggere e precisare, ha detto che chi promuove il no al referendum, quando si voterà probabilmente in novembre, quindi no alla riforma costituzionale, non rispetta il Parlamento. Molti l'hanno subito attaccata dicendo votare no è esattamente un diritto come votare sì e non significa delegittimare il Parlamento. Lei ha poi precisato, e da qui il titolo Gaffe e polemiche, che intendeva i promotori del no, che magari per quella riforma durante i suoi numerosissimi passaggi tra Camera e Senato avevano invece votato sì. Poi una volta proposto il referendum hanno cominciato invece a votare no. Naturalmente si riferiva anche alla minoranza del suo partito, alla cosiddetta minoranza Dem. Poi ci sono appunto, come vi dicevo, il quotidiano nazionale nelle sue pagine di sport non torna sulla vicenda delle cicciottelle, fa semplicemente della cronaca sulle gare di ieri. La stampa titola sull'emergenza migranti, in questo caso focalizzandosi su quello che sta succedendo a Milano e in particolare sulle parole di Sala. Anche lì c'è stata la necessità di precisare una dichiarazione. Comunque il titolo della stampa è Sala, due punti, tende per i migranti a Milano. Il sindaco aveva appunto in un primo tempo dichiarato che vedendo tutti questi migranti respinti dalla Svizzera venire a Milano bisognava vederli per strada, dormire per strada, mangiare per strada e naturalmente rappresentano un disagio per molte persone che abitano nei quartieri dove questi migranti cercano di rifugiarsi temporaneamente perché quasi tutti vogliono, dichiarano che vorrebbero passare queste famose frontiere per andare verso il nord Europa. Ma questa dichiarazione ha suscitato le ire di molti, tra i quali tra questi anche il presidente della regione Maroni, e quindi poi Sala ha fatto leggermente marcia indietro. L'emergenza però rimane perché è un dato di fatto che sono ancora numeri, tra virgolette, piccoli, non sono mai piccoli, sono tutte persone questi, però bisogna trovare una qualche sistemazione. Spuntano le ipotesi di usare delle caserme dismesse oppure l'ex villaggio Expo. La fotonotizia anche in questo caso è di Erdogan e Putin, mentre quella scelta dal Corriere era però di loro seduti in una grande sala, qui sono seduti a un tavolo, si guardano e non si capisce bene se sia uno sguardo di intesa o di sfida, però la notizia è sempre quella, il vertice di San Pietroburgo che si è tenuto a ieri. Il Messaggero affronta la questione dell'emergenza migranti, però cominciando a proporre una soluzione, per esempio si potrebbero stanziare, questo ha detto il governo ieri, nuovi fondi ai comuni per appunto provvedere a sistemazioni più o meno temporanee. E quindi il governo affronta l'emergenza migranti, più incentivi ai sindaci che accolgono i profughi. Abbiamo visto ieri la mappa dei sindaci e delle regioni, quindi dei comuni e delle regioni che hanno rispettato la ripartizione, quella che era stata definita come ripartizione dei profughi e quelli che invece non l'hanno fatto. Vi segnalo dal Messaggero anche un pezzo di Oscar Giannino sui conti pubblici, pensioni flessibili, le incognite nascoste di questa riforma della pensione, sapete, della possibilità di poter andare prima in pensione. Abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi e ne parleremo ancora, in particolare quando poi dopo la pausa, la lunga pausa estiva dei nostri parlamentari, si tornerà a discuterne anche in Parlamento della riforma delle pensioni e anche nelle riunioni del governo. Il pezzo di Oscar Giannino, e ne approfitto, ma probabilmente l'ascoltatore che aveva chiesto lumi settimana scorsa nel frattempo sa che Oscar Giannino, che chiedeva se Oscar Giannino sarebbe tornato per la prossima stagione a Radio 24, sì, è così, il contratto è stato appunto che era ancora non firmato quando aveva salutato gli ascoltatori 2 settimane fa, il contratto è stato firmato, quindi Oscar Giannino tornerà a settembre. Un'altra prima pagina, come ieri la cito perché è proprio il quotidiano della Liguria, il quotidiano è la redazione a Genova, il Secolo XIX, che però parla sì di Ventimiglia, ma siccome ieri la situazione a Ventimiglia era un po' meno grave rispetto all'altro ieri, il titolo è su Milano, scontro sui migranti. E queste due posizioni messe anche qui a confronto, il sindaco Sala che ha detto mancano i posti, usiamo le tende, e Maroni che ha subito detto assolutamente no. In prima pagina, oltre anche qui a una foto di Putin e Erdogan, un richiamo invece a quello che è l'ultima dichiarazione in ordine di tempo di Donald Trump, il candidato repubblicano alle elezioni americane che si terranno l'8 novembre, che ieri, così, non smentendosi mai nell'usare parole che poi vengono puntualmente discusse e diventano oggetto di asprissimo confronto, sia con i democratici che all'interno del suo partito, perché ieri ci sono stati ben due rappresentanti del Partito Repubblicano che hanno detto noi ci dissociamo completamente dalle posizioni di Trump, e non era quasi mai successo nella storia della politica americana del dopoguerra che un partito si spaccasse così chiaramente e platealmente al suo interno sulla nomina del candidato, quindi già a primarie fatte sulla nomina del candidato alle presidenziali. E quindi appunto titolo del Secolo XIX, Trump shock, perché ieri ha detto chi ha un'arma, fermi Hillary Clinton. Avvenire titola sull'emergenza Aleppo, perché ieri le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per un cessate il fuoco di almeno 48 ore. Adesso sul ruolo e sulla capacità di influenzare gli eventi delle Nazioni Unite si può discutere molto. Io ricordo sempre la vicenda del Ruanda, dove il più grande genocidio e anche il più veloce, circa 650.000 persone uccise in circa 3 settimane, del secondo dopoguerra, avvenne praticamente sotto gli occhi dei caschi blu. Quindi, dopodiché, naturalmente si può parlare di quanti strumenti anche pratici, proprio boot on the ground, come dicono gli americani, ha l'ONU, ma di fatto, appunto, purtroppo l'efficacia della sua azione a volte è scarsa. In ogni caso, ieri è stato lanciato dalle Nazioni Unite questo appello, perché Aleppo, la città assediata, che è la seconda città più grande della Siria, è a questo punto senza acqua né elettricità. E quindi questa tregua, appunto, dovrebbe servire almeno per tamponare questa emergenza e per evitare che la gente muoia di fame e di sete. Dalla prima pagina dell'Avvenire, anche in questo caso un commento sulla vicenda del titolo sulle cicciottelle c'è, è di una donna, Angela Calvini, si intitola La doppia fatica delle atlete e l'uso distorto del corpo, anche in questo caso vi leggo le prime righe. Siamo alle solite. Le Olimpiadi più dichiaratamente politically correct della storia dimenticano spesso e volentieri di esserlo per il corpo delle donne. O meglio, lo dimenticano soprattutto i tanti commentatori sportivi e giornalisti, in netta prevalenza maschi, che si occupano di sport, come dimostra il caso delle atlete di tiro con l'arco. L'Unità titola su questa richiesta di tregua di 2 giorni dell'ONU, il titolo è proprio brevissimo, di 5 caratteri, 48 scritto in numero ore. 2 milioni di civili ad Aleppo sotto i ribelli o i governativi allo stremo, sotto i ribelli o i governativi, che sono le due principali fazioni che si contendono Aleppo, allo stremo senza elettricità o acqua. Quella dell'ONU, naturalmente la tregua chiesta dall'ONU è una tregua umanitaria, perché questi 2 giorni potrebbero almeno servire per riparare alcuni impianti, soprattutto idrici, e dare cibo e medicine. Il Fatto Quotidiano titola invece, come ha fatto il Quotidiano Nazionale, sulle dichiarazioni di Maria Elena Boschi, il ministro per le riforme: la Boschi è incostituzionale. Renzi disperato, scrive il Fatto in prima pagina, se vinco il referendum 500 milioni risparmiati per i poveri. Il riferimento è anche, poi c'è scritto nel pezzo, che dopo aver per molti mesi detto, anzi fin dall'inizio, questo referendum è un referendum sull'operato del governo, quindi sul mio operato, è una mia responsabilità, e se verrò se quindi al referendum vincerà la posizione che non è la mia, cioè vincerà il no, io me ne andrò. Ieri ha dichiarato: ho sbagliato. E uno può sicuramente criticare Renzi, però non capita spesso di sentire un politico di primo piano ammettere così chiaramente: ho sbagliato, dice, ho sbagliato a personalizzare. A proposito di uso del corpo delle donne, proprio sul Fatto Quotidiano, su cui scrivono tante donne che della questione dell'uso del corpo delle donne hanno fatto anche uno dei loro argomenti principali, c'è una, a mio parere, orribile illustrazione di Riccardo Mannelli, e sapete che lo cito sempre quando alla domenica illustra le bellissime interviste di Antonio Gnoli, che si chiamano Straparlando. Il ritratto dell'intervistato è sempre suo e dico sempre che è bellissimo. Questa invece è una vignetta veramente orribile, secondo me. È Maria Elena Boschi, è una caricatura più che un'illustrazione, e il titolo è Lo stato delle cosce. Con la C tra parentesi, quindi sarebbe lo stato delle cose oppure delle cosce. Le cosce, perché nel disegno si vedono per l'appunto le cosce di Maria Elena Boschi. Il Giornale ha invece come fotonotizia la fotonotizia di una delle arciere definite cicciottelle, e ricordiamo che ieri il Giornale sosteneva che non c'era nessun problema a usare questo termine, e che era solo l'ennesima stortura del politically correct, e oggi un po' si rincara la voce. Licenziato per il titolo sulle arciere cicciottelle, Ci sono due pareri, devo dire, ai quali viene dato lo stesso identico spazio, uno è contrario e uno favorevole. Uno è Stefano Zecchi, che è professore di estetica, che dice di cattivo gusto perché non si giudica l'aspetto estetico, e l'altro di Camillo Langone, sicuramente un noto polemista, che invece è favorevole, dice troppo galateo ammazza la libertà di parola. Ci fermiamo un attimo e ci ritroviamo tra pochissimo. In primo piano. Buongiorno, buongiorno di nuovo da Giulia Crivelli, e grazie davvero ancora anche a tutti quelli che mandano gli sms, vuol dire che sicuramente ascoltate con attenzione. E vi ricordo anche, se volete, comunque io ho anche un account Twitter, Giulia trattino basso Crivelli, oppure sono su Facebook, tutte le critiche sono benvenute. Ma torniamo solo un attimo, dicevo, sul giornale, alla questione del titolo sulle cicciottelle, su cui arrivano ancora altri commenti. Vi dicevo, due articoli richiamati in prima pagina, uno di Stefano Zecchi e uno di Camillo Langone, uno che dice Stefano Zecchi è stato un titolo sbagliato, l'altro Camillo Langone che dice invece va bene così. Vi leggo l'ultima parte del pezzo di Stefano Zecchi. Almeno il giornalismo sportivo dovrebbe provare a ignorare questa ossessione per l'estetica, anche per l'importanza educativa che ha nei giovani lo sport. Se invece perfino l'avvenimento sportivo più importante finisce per essere trattato come un concorso di bellezza, non si cade nel degrado morale, ma nell'idiozia che non fa comprendere cosa sia davvero l'estetica e quali siano i suoi confini. E invece Camillo Langone si rifà, forse lo ricorderete, a quell'intervista rilasciata da Clint Eastwood all'Esquire, edizione americana, da Clint Eastwood e suo figlio, dove Eastwood diceva mi sono veramente stufato del politically correct e anche per questo voterò Donald Trump. E quindi Camillo Langone scrive: quindi ha ragione Clint Eastwood, che ha dichiarato di votare Trump nonostante egli sia più di cattivo gusto di qualsiasi titolo giornalistico, per battere la generazione pussy. Traduce Camillo Langone, io cito testualmente, timorose fighette. Questo non si può dire, questo non si può fare, tutto è proibito. In questo mondo di permalosi, subito pronti a linciare, protetti dal numero, chi pronuncia una parola di troppo, c'è urgente bisogno di qualcuno che abbia il coraggio di dire pane al pane e ciccia alla ciccia. E visto che tutti si chiedono ma si sono offese sì o no, allora vi cito subito dal Foglio proprio l'editoriale di Giuliano Ferrara, e sapete tutti, lui è più che cicciottello. Il titolo è «Tanto fracasso per cicciottelle e bamboline, ve lo dice un grassottello o anche solo un grasso, non è un rumore gradevole». Quindi sicuramente forse stiamo dando tutti un po' troppo peso alla questione, ma io per esempio, che sono abbastanza magra, non voglio esprimere pareri su questo, cioè se mi dicono che sono troppo magra, non so, l'equivalente attaccapanni, anche per me non sarebbe piacevole. Però Giuliano Ferrara sulla sua pelle da grasso ci dice no, non è un rumore piacevole. Ma vediamo la prima pagina di Libero, che invece si concentra su quello che sta succedendo a Roma, perché da una parte ci sono le due grandi emergenze di cui abbiamo parlato, quella dei rifiuti e quella del trasporto pubblico con le relative municipalizzate, l'AMA e l'ATAC. E poi però ieri si è tornato a discutere della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024. E Vittorio Feltri parla di questo, ma Libero ha anche calcolato che solo oggi, e poi sappiamo che spesso i costi nel corso del tempo lievitano, solo oggi si stima che per queste Olimpiadi a Roma servirebbero 11,5 miliardi. E proprio ieri abbiamo letto che a Roma non ci sono neanche i 18 milioni di euro necessari per fare la manutenzione ordinaria agli autobus, e che se non si troveranno in fretta la metà dei collegamenti pubblici a Roma dovrà fermarsi. Il Manifesto titola l'ultima goccia, e la foto è di una strada di Aleppo in fiamme, quindi il riferimento è alla tregua chiesta dalle Nazioni Unite. E in prima pagina anche Trump, perché ieri, oltre a, come vi dicevo, i due esponenti del Partito Repubblicano che si sono dissociati e hanno detto che non voteranno Trump, c'è stato anche un pool di economisti un pool di economisti ed esperti di politica estera che hanno definito Trump un pericolo per la sicurezza americana. In prima pagina anche il risarcimento che la Volkswagen dovrà in questo momento, potrebbe anche aumentare questa cifra, pagare agli Stati Uniti. Ieri abbiamo parlato della multa di 5 milioni che le è stata che le è stata inflitta in Italia. Ecco, negli Stati Uniti invece si parla di 14,7 miliardi di dollari per la vicenda, naturalmente, delle centraline truccate con le quali si misuravano le emissioni di alcuni modelli di vetture Volkswagen. La Gazzetta dello Sport, che forse a questo punto veramente dovrebbe chiamarsi la Gazzetta del Calcio, perché d'accordo, ieri non sono arrivate medaglie, ma la parte centrale è tutta dedicata al calcio, soltanto una spalletta sulle Olimpiadi, e sappiamo che il campionato non è ancora iniziato, ci sono i titoli di calciomercato, certo sono cifre che fanno impressione, però a me fa impressione anche, appunto, che visto che si chiama la Gazzetta dello Sport e a Rio vediamo degli sport che purtroppo durante l'anno hanno pochissimo spazio, dico purtroppo perché comunque gli atleti fanno lo stesso tipo di sacrifici che fanno quelli del calcio, forse anche di più, e poi perché è anche divertente vedere delle cose che normalmente non si vedono. Tant'è però la Gazzetta dello Sport, i milioni di Pogba, Juve in casso netto di 78, Raiola al procuratore ne guadagna 35. E poi un titolo dedicato all'arrivo, alla presentazione ufficiale di Frank de Boer, l'allenatore olandese, il nuovo allenatore dell'Inter. De Boer stoppa Icardi, quindi sarebbe appunto intenzionato a evitare il trasferimento di Icardi a un'altra squadra, e sfida la Juve. Del commento di Ferrari, di Ferrara al titolo sulle cicciottelle vi ho detto, e quindi ci spostiamo sulle pagine interne dei giornali, torniamo sul Sole 24 Ore, dove ci sono due notizie che riguardano la nostra macchina, la nostra Italia, la nostra macchina dello Stato. Da una parte i patti per il Sud, è attesa per oggi l'assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, sarebbero in arrivo 13,4 miliardi, e questa è l'eterna questione irrisolta del fatto che il nostro paese è ancora, lo dicono tutte le statistiche, diviso in due, con un Sud che arranca sempre dal punto di vista economico rispetto al Nord. Dall'altra parte, vi dicevo, un'altra questione importantissima per l'Italia, per il funzionamento dell'Italia, quindi anche per rendere la vita più facile a tutti noi cittadini, la riforma della pubblica amministrazione, che sapete è una delle grandi riforme che il governo Renzi sta cercando di fare. Non è ancora, non ci sono ancora tutti i decreti attuativi, però ci spiegano Marco Mobili e Gianni Trovati, il governo accelera ma è alta attenzione sulla dirigenza. Atteso oggi, perché oggi c'è un Consiglio dei Ministri, un pacchetto di decreti legislativi dal via libera al riordino delle partecipate, le famose partecipate, al primo esame delle norme sulle camere di commercio. Ieri avete forse ricordate la prima puntata di questa inchiesta di Paolo Bricco sull'industria, sul manifatturiero, cioè sull'economia reale. La prima puntata era dedicata alla Germania e abbiamo visto come sulla Germania si punti soprattutto sulla fabbrica intelligente, cioè sull'efficienza della fabbrica. Il titolo scelto invece per analizzare il caso americano, la cosiddetta Industry 4.0, negli USA nasce il prodotto intelligente. La spinta iniziale è stata data dalla mano pubblica, poi l'iniziativa è passata alle grandi imprese. Cosa significa questo prodotto intelligente? Negli Stati Uniti, scrive Paolo Bricco, dove è preponderante il rapporto con il consumatore finale, la rivoluzione digitale sfocia nella personalizzazione dei beni. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore, forse ricorderete, settimana scorsa abbiamo citato quell'inchiesta della stampa su come l'UNESCO, come purtroppo tante altre branche delle Nazioni Unite, sia una struttura elefantiaca che sì, fa un lavoro sulla carta meritorio, cioè quello di scegliere i siti che sono da tutelare, sono patrimonio dell'umanità, però ha anche una struttura che spreca molti soldi. E in questo caso invece Mariano Maugeri da Catania ci racconta come l'UNESCO, che ha concesso a molti siti siciliani appunto questa definizione di patrimonio dell'umanità, in realtà poi non è riuscito, ma qui non è colpa dell'UNESCO ma probabilmente delle autorità locali, non si è riusciti a farne un volano per il turismo, e da qui il titolo, il volano mancato del patrimonio UNESCO. E pensate che appunto in Sicilia ci sono l'area archeologica di Agrigento, la villa romana del Casale, le isole Eolie, le città tardo barocche della Val di Noto, Siracusa e la necropoli rupestri di Pantalica, l'Etna e la Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale. Tutte queste appunto sono siti che per l'UNESCO sono patrimonio dell'umanità. Da tenere sempre sotto osservazione, secondo me, in generale l'andamento delle materie prime, perché appunto sono uno dei tanti fattori dell'economia reale di cui noi magari ogni tanto parliamo, ma poi alla fine sono forse, se parliamo poi in particolare di petrolio, sono poi i movimenti che davvero spostano l'economia. E quindi nella pagina di materie prime del Sole 24 Ore, la 22, un aggiornamento sul fatto che il petrolio è di nuovo in frenata, si stempera l'effetto OPEC sui prezzi, il settore continua a soffrire l'abbondanza dell'offerta. E sapete che questo calo, questo crollo dei prezzi del petrolio nell'ultimo anno è alla base di due grandi crisi, quella della Russia e quella del Venezuela, che è un paese di cui purtroppo non parliamo tanto, ma che abbiamo detto di Aleppo senza acqua, senza medicine e senza elettricità. In molte città del Venezuela la situazione non è molto diversa, lì non è una questione di guerra ma di crisi economica profondissima. Vi ricordo il focus giornaliero per le guide per i professionisti con l'approfondimento sui distacchi dall'estero alle pagine 29 e 30 del Sole 24 Ore di oggi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Abbiamo detto di come continuino a esserci queste polemiche all'interno del PD che, siccome ha promosso il referendum, Renzi è anche il segretario del PD, oltre a essere il premier, dovrebbe esserci una posizione unitaria, e invece, come abbiamo visto, ci sono ogni giorno salta fuori qualcuno del PD che dice che al referendum voterà sì e anzi addirittura voterà no, e anzi addirittura sta promuovendo dei comitati per votare no. E sul Corriere della Sera una intervista a Roberto Speranza, che è un deputato del PD eletto nel 2013, è stato addirittura capogruppo, poi si è dimesso da questa carica dal 2013 al 2015. Vuole un congresso subito perché appunto è completamente in disaccordo con la posizione di Renzi, che ieri, tra le tante cose che ha detto contrasti si risolvono al congresso, ma non si può fare un congresso ogni giorno. E invece Speranza vorrebbe proprio questo, cioè un congresso per decidere subito chi nel partito, anzi il congresso elegge anche il presidente del partito, quindi eventualmente per vedere se il partito rieleggerebbe Matteo Renzi. Un interessante approfondimento sempre dal Corriere della Sera di Francesco Giavazzi. Quanto abbiamo usato questa parola incertezza, volatilità, che è davvero quello che caratterizza i mercati spesso, ma in particolare dall'inizio di quest'anno. E qui è interessante perché Francesco Giavazzi, oltre a spiegare tutta la questione dal punto di vista finanziario, fa pubblicare anche una mappa del cervello che spiega come prendiamo le decisioni, perché a volte le prendiamo appunto in modo irrazionale. I due casi anche recenti, quando gli investitori, oltre, abbiamo visto tante volte nei giorni scorsi, questo scollamento tra l'andamento degli indicatori fondamentali di un'azienda, fatturato, indici di redditività, indebitamento, e poi il suo andamento in borsa, ma anche su altre questioni come la Brexit. E quindi Francesco Giavazzi cerca di dare il suo contributo a capire che cosa c'è alla base di questa grande incertezza e volatilità. Sulla questione dei trasferimenti dei professori dal sud al nord, che fa parte della riforma della scuola approvata qualche mese fa e su cui ci sono state molte polemiche, perché quelli a cui viene offerto un posto fisso, a patto però che si spostino per esempio dalla Sicilia alla Lombardia, hanno protestato, e Gian Antonio Stella torna sulla questione e dice: l'80% dei nuovi prof sono del sud, ecco perché trasferirli non è un complotto. Cioè, siccome in meridione c'è soltanto un terzo delle cattedre disponibili, se queste cattedre si vogliono e i due terzi sono al centro o al nord, per forza di cose bisogna spostarsi. Il Corriere della Sera intervista anche questo giornalista Giuseppe Tassi, il responsabile del QS, che ha fatto ieri il famoso titolo Il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico. Vi leggo subito dopo la pausa per il traffico due delle sue risposte che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano e non danno un contributo veramente importante a questo dibattito giusto o sbagliato che si è aperto. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e complimenti alla resilienza del nostro ascoltatore che non si firma ma continua a mandare commenti sulla questione delle cicciottelle e non solo, e come ieri definisce di nuovo, mi critica per aver citato l'Avvenire, lo definisce un foglio catto comunista. Io trovo che le scelte dell'Avvenire siano spessissimo molto coraggiose, che metta in prima pagina delle questioni di cui, soprattutto che riguardano la sofferenza delle persone in Italia e nel mondo, che alle quali molti altri giornali danno meno spazio. Io quindi continuerò a citarlo e a sfogliarlo e a non considerarlo catto comunista, anche perché catto comunista viene considerato un insulto. Ma vediamo questa intervista di cui vi dicevo, la trovate a pagina 21, di Stefania Chiale a Giuseppe Tassi, l'autore del titolo Il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico. E a questo proposito ricordo, perché ieri sono arrivati dei messaggi su questi, spesso noi giornalisti della carta stampata scriviamo il nostro pezzo e poi è chi è gerarchicamente superiore a noi e quindi responsabile o della sezione in cui scriviamo o in questo caso come Giuseppe Tassi proprio del Quotidiano Sportivo a fare il titolo. Da qui il fatto che non è il giornalista che ha scritto il pezzo a essere sotto accusa, ma appunto chi ha fatto il titolo. E vi dicevo delle risposte un po' così, che secondo me non soddisfano chi ha criticato quel titolo. Risponde Tassi a una domanda: siamo partiti da un fatto che chi ha seguito la gara ha sicuramente notato. Le tre arciere azzurre hanno un aspetto insolito per essere atlete di livello olimpico. Con questo titolo volevamo rilevare, in tono affettuoso, che anche le persone comuni possono diventare delle atlete di altissimo livello. Io mi sfugge la logica di tutto questo, perché cicciottelle, insomma, affettuoso è già un po' una forzatura. E poi le persone comuni, cioè le persone cicciottelle sono persone comuni, o per essere comuni bisogna essere cicciottello? Non capisco, francamente. L'ultima domanda: 30 anni fa una frase del genere avrebbe fatto meno scalpore? Tassi risponde: certo, questi sono i tempi del politicamente corretto e di una maggiore sensibilità, tutti dobbiamo adeguarci, per questo è stato giusto chiedere scusa, abbiamo fatto un errore e lo abbiamo ammesso. Siccome qualcuno si chiedeva sugli altri giornali, ma non mi sembra che le ragazze si siano offese, eccola qui Gwendalina Sartori, quarta nell'arco a squadre, che dice: chi ci offende ignora i sacrifici di una vita. E Ettore Livini le chiede: sono arrivate le scuse, queste di cui parlava il giornalista, e la rimozione non possono bastare? Le scuse le ha fatte ai suoi lettori, non a noi. Può darsi sia stata solo un'ingenuità. Mi sarebbe piaciuto parlare con chi ha fatto quel titolo per capirne le motivazioni. Sinceramente non mi piace nemmeno che i social network stiano massacrando i responsabili, questo è troppo. Ma una telefonata di scuse, no, non l'abbiamo ricevuta. Ieri abbiamo parlato di questi No Borders, questo movimento di in generale giovani che però ai quali però, e qui vengono ripubblicate le foto, sono stati sequestrati delle armi dall'aspetto veramente pauroso. Sulla carta si battono perché le frontiere vengono aperte, perché le persone, soprattutto i migranti, possano liberamente circolare. Oggi Grazia Longo ci racconta qualche cosa di più, cerca di capire che cosa sono questi No Borders, che tra l'altro vengono da tante nazioni diverse, perché per molti sono, credo anch'io che sia così, sono pericolosamente vicini ai No Block che abbiamo visto in azione in tantissimi vertici internazionali. Inutile citare il tremendo caso di Genova, e però anche di recente, l'anno scorso, quando qui a Milano si era aperto l'Expo, un anno e mezzo fa in realtà, e c'era stata questa grande manifestazione e il centro di Milano era stato messo a ferro e fuoco. Una inchiesta della Stampa, visto che comunque ancora tante persone partiranno per le vacanze e lo faranno in auto, Raffaele Zanotti: state per mettervi in viaggio Ecco le 5 strade più pericolose. E c'è questa analisi, trovate a pagina 10 e 11, con il numero dei morti, degli incidenti mortali e dei feriti sulla Milano-Roma-Napoli, la 1, sulla Torino-Trieste, la 4, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, che tecnicamente è la A90, sulla A14, la Bologna-Taranto, e sulla A3, la famigerata Salerno-Reggio Calabria. La Stampa approfondisce, anche l'unico giornale che lo fa con così tanto spazio, sulla dichiarazione appunto di cui abbiamo parlato ieri in uno dei comizi che sta tenendo Trump. Questo era a Wilmington, nel North Carolina. Chi ha armi potrebbe fermare Hillary. Il repubblicano invoca il popolo del secondo emendamento, cioè quel che appunto dice che ci si può difendere con le armi, e poi però viene richiamata anche questa lettera di cui vi dicevo, di 50 esperti di politica estera e di economia, che dice: noi non lo voteremo perché è incosciente. Sulla questione del vertice a San Pietroburgo tra Erdogan e Putin, vi segnalo un retroscena raccontato da Alessandro Orsini sul Messaggero, che dice che in realtà questo è un po' l'inizio di quello che secondo Putin è un piano anti-America, una super alleanza a quattro, che cioè adesso, dopo aver coinvolto la Turchia, vorrebbe coinvolgere anche Iran e Cina. Ricordiamo che la Turchia è parte della NATO, mentre l'Iran e la Russia naturalmente non lo sono. Maria Latella, che tutti gli ascoltatori di Radio 24 conoscono per la sua trasmissione Nessuna è perfetta, invece ci fa un ritratto, sempre sul Messaggero a pagina 12, di Marina Berlusconi. Ieri forse ricorderete il colloquio di Marina Berlusconi in veste di presidente di Mediaset su quello che sta succedendo all'interno di Mediaset, con la possibile cessione di Premium, ma anche con l'accordo con i francesi di Bolloré. Però Marina Berlusconi nel frattempo ha anche compiuto 50 anni, e Maria Latella ce ne fa un ritratto con anche alcune foto storiche. 50 anni di Marina Berlusconi, il capofamiglia ora è lei. Sapete che nella recente ristrutturazione della struttura di comando di Forza Italia, il partito fondato dal padre, tutti i commentatori, anche se lei su questo non si è ufficialmente espressa, hanno detto che appunto dietro l'allontanamento di alcuni personaggi e l'aver ridato centralità ad altri c'è proprio lei. Una questione di cui adesso non stiamo parlando perché di recente non ci sono stati disastri, ma al prossimo disastro, la prossima frana, la prossima alluvione bisognerà tornarne a parlarne. Stiamo parlando del dissesto idrogeologico di questo paese. Ieri c'è stata una dichiarazione del Consiglio Nazionale dei Geologi che ha detto: molte regioni sono senza corsi di laurea e in questo modo la ricerca e la prevenzione non possono essere sviluppate. Il taglio dei dipartimenti universitari di scienze della terra dai 38 del 2000 si è scesi, pensate, agli attuali 8, cioè un decreto legge fermo al Senato. Una mappa inquietante tratta dai dati di Legambiente, che indica i comuni a rischio idrogeologico, e sul totale delle regioni sono sempre una percentuale altissima. Per esempio, pensate che in Val d'Aosta il 100% dei comuni è a rischio idrogeologico, lo stesso vale per la Calabria. E quindi sono dati che appunto poi verranno ritirati fuori al prossimo disastro, ma nel frattempo forse non si sarà fatto nulla. Dalle pagine invece del giornale vi segnalo una notizia che viene dalla Germania, da Berlino. Nei tribunali scoppia la battaglia del velo. L'associazione dei magistrati chiede di vietare l'hijab per avvocati e giudici. Mina la neutralità della legge. In Italia, per esempio, forse l'avete notato entrando negli ospedali, nelle strutture sanitarie pubbliche, c'è per esempio un cartello che indica molto chiaramente che il viso deve essere riconoscibile, scoperto. E adesso appunto si chiede questo in Germania, almeno per quanto riguarda la giustizia. Ancora, per chi volesse trovare ancora un altro angolo su questa questione delle cicciottelle, sul titolo cicciottelle, a pagina 15 del giornale: quelle superdonne simbolo di normalità, vogliamo solo tirare. E la foto è quella di Gwendalina Sartori, anche lei cicciottella, secondo sicuramente verrebbe definita così dal direttore, l'ex direttore di QS, e secondo Vittorio Maciò, cioè appunto la questione non è poi così grave. Sulla bella iniziativa del giornale di ripubblicare articoli pubblicati tanti anni fa, che però in qualche modo, se non si sapesse che sono di tanti anni fa, sembrerebbero molto attuali, Oggi tocca a Cesare Marchi, un grande scrittore italiano, scrittore e giornalista che è scomparso nel 1992. Questo articolo è del 2 luglio 1980 e si intitolava «Le buone maniere non sono più di moda. Oggi sei un cafone se non dici le parolacce». E anche qui quanto potrebbe essere appunto di attuale questo articolo. Il Fatto Quotidiano invece ha due approfondimenti sulle banche, uno sulla banca BSI, la banca della Svizzera italiana che ha 143 anni e secondo Gianni Barbacetto ha molti, anche lei, scheletri negli armadi. Gli affari sporchi della banca svizzera controllata dall'Italia, questo a pagina 15 del Foglio. Un altro approfondimento su un'altra banca, in questo caso una banca britannica che è presente anche in Italia, la Barclays. La filiale italiana della banca inglese ha fatto 10.000 contratti con ignari clienti, con prestiti agganciati alle variazioni della moneta svizzera. E così la rata dei mutui è salita del 45%. Anche qui la questione della trasparenza, del veramente spiegare ai correntisti o a chi chiede un mutuo quali sono i rischi reali di quello che stanno facendo, di quello che stanno firmando. Ricorderete, ieri abbiamo segnalato il caso di quei controlli antidoping dopo una gara di ciclismo riservata a bambini di 12 anni. Oggi il Fatto Quotidiano ci torna dicendo: la prima farmacia, quella di papà e mamma. Ieri l'articolo che abbiamo citato ieri riportava la rabbia, lo sconcerto anche di molti genitori che hanno visto fare questi controlli. La questione, secondo me il punto importante, è che è a partire dai 13 anni che vengono date delle regole molto chiare su quello che si può usare o no, perché in caso di analisi anche alcune medicine che dalle persone normali non vengono certo considerate doping, penso ad alcuni sciroppi per la tosse, ma che poi contengono sostanze che nei controlli sono nelle liste delle sostanze dopanti. Ecco, queste informazioni non vengono date, quindi magari qualcuno, come ipotizza il Fatto, qualche genitore ha delle colpe, altri invece magari o in altri casi magari proprio è una semplice questione di non informazione. Libero, che ieri con Vittorio Feltri aveva molto criticato il titolo del giornale sulle cicciottelle, oggi invece con Alessandro Dell'Orto dice che orrore cacciare il direttore per il titolo delle cicciottelle. Vi segnalo dal Foglio due approfondimenti nella pagina degli editoriali. Uno riguarda un presentatore inglese della BBC che anche lui ha, come molti presentatori in Italia, ha uno stipendio stellare, si è difeso dicendo: lavoro, guadagno, mando avanti la BBC. E forse l'invito è appunto a chi ha questi stipendi e viene molto criticato a spiegare perché alla fine conviene alla RAI. Purtroppo era l'ultima segnalazione per oggi, ringrazio Peter Bescapè in regia, vi ricordo che Estate è il programma che inizia dopo il GR, anche in questo caso molti i temi di attualità, compreso naturalmente quello di cui abbiamo parlato, dell'emergenza migrazione, soprattutto in questo caso al nord, Ventimiglia, Como e Milano. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.